Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Sesta puntata. Dentro c'era un buio da bernoccoli, con un fracco di letti e armadi e sedione e pile di scatole di libri in giro. Ma io andai filato alla porta della stanza perché vedevo una lucina tipo fessura. La porta fece ciiiiu e mi trovai in un corridoio polveroso pieno d'altre porte. Un bello spreco, fratelli, tutte quelle stanze per un'unica quaglia bigia e i suoi pussigatti. Ma forse i rattoli e le rattole vivevano tipo camere separate, mangiando panna e teste di pesce come tanti principi reali. Sentivo venire da sotto la ciangotta soffocata di questa vecchia babusca che diceva «Sì, sì, bravi, bravi!» Ma certo sprolava con quegli sguinci che facevano «Meeeh!» per chiedere ancora mommo. Poi vidi le scale che andavano giù nell'ingresso e pensai tra me che avrei fatto vedere a quei miei indegni e volubili soma che io valevo da solo più di loro tre messi insieme. Avrei fatto tutto da solicello. Avrei eseguito la vecchia ultraviolenza sulla bigia babusca e sui suoi pussimao, se necessario. Poi avrei preso delle belle granfiate di ciò che aveva l'aria d'essere roba buona. Sarei andato verso la porta ballando il valzer, l'avrei aperta e avrei fatto piovere oro e argento su miei soma in attesa. Dovevano imparare tutto sull'arte del comando. Così me ne pistonai giù prendendomi la comoda e ammirando sulle scale i saloppi quadri antichi che c'erano, mammole coi capelli lunghi e il colletto alto, un paesaggio tipo campagna con alberi e cavalli, il santo poldo barbuto tutto spalandrato spenzolante da una croce. C'era una gran sniffa rancida di pussi gatti e pussi pesci e polvere in questo gabbione, molto diversa da quella dei nostri alloggi. E quando fui di sotto locchiai la luce di quella stanza sul davanti, dove lei aveva distribuito il mommo ai rattoli e alle rattole. Potevo locchiare anche qualcuna di quelle grandi scorfacce super rimpinzate che uscivano ed entravano, dimenando la coda e strofinandosi contro l'uscio. Sopra un grosso credenzone di legno, nell'ingresso, locchiai una bella statuina che brillava nella luce della stanza, così quella l'arraffai per me, dato che era una giovane mammola su una patta sola e le braccia aperte, e si capiva che era fatta tutta d'argento. Così l'avevo nella granfia quando entrai nella stanza illuminata, dicendo «Salve, salve, salve! Finalmente ci conosciamo!» La nostra sprolatina attraverso la buca delle lettere non è stata, diciamo, molto soddisfacente, vero? Ammettiamolo, vecchia puzzona, ammettiamolo. E detti un rapido sguardo alla stanza e alla bigia babusca. La stanza era piena di rattoli e rattole che strisciavano avanti e indietro sul tappeto e bioccoli di pelame fluttuavano dappertutto. E queste grasse scorfacce erano di tutte le forme e colori, bianche, nere, rosse, a chiazze e a strisce, e anche di tutte le età, così che c'erano dei gattini che si scapricciavano e dei pussigatti in pieno vigore e altri molto bigi e bavosi e maligni. La loro padrona, questa vecchia babusca, mi guardò furiosa come un uomo e disse «Come ha fatto a entrare? Stia lontano, brutto piccolo mascalzone, o le do questo sulla testa!» Mi fece una gufata cinebrivido, l'occhiando che teneva uno stronzo bastone da passeggio nella granfia venosa e che l'aveva alzato per minacciarmi. Così, facendo scintillare gli zughi, mi avvicinai a lei un piccolo poco, tanto per guadagnar tempo, e in quel mentre l'occhiai sopra una mensola una trucchetta bellissima. La più bella trucchetta che un malcico amante della musica possa sperare di vedere, perché si trattava del planetario e delle mestole di Ludwig van in persona, quello che chiamano un busto, una trucca tipo pietra coi lunghi capelli e i fari ciechi e la grossa cravatta svolazzante, tutto di pietra. Ci persi subito la testa dicendo «Guarda quanto è bello, è tutto per me!» Ma per via che me ne riempivo gli occhi mentre andavo a prenderlo con le granfie avidamente tese, non vidi i piattini di latte per terra e ci inciampai sopra. «Op!» dissi, cercando di riprendere l'equilibrio. Ma questa vecchia quaglia mi era venuta dietro, quatta, e con gran guizzaggine per la sua età, e mi fece crac crac sul planetario col suo bastoncino. Così mi trovai ai ginocchioni per terra dicendo «Cattivona, cattivona, cattivona», mentre cercavo di alzarmi con le granfie. E lei ci dava dentro col suo crac crac e diceva «Brutto pulcioso d'un disgraziato! Entrar così nelle case della gente per bene!» Tutto quel crac crac finì per stufarmi e allora acchiappai la punta del bastone mentre veniva giù e feci perdere l'equilibrio anche a lei. E lei si aggrappò al tavolo per non cadere, ma la tovaglia che c'era sopra venne via insieme a un bricco e a una bottiglia di latte che lanciarono spruzzi bianchi in tutte le direzioni. Poi lei si trovò per terra e cominciò a grugnire dicendo «Maledetto ragazzo, te ne farò pentire!» Ora tutti i gatti stavano diventando elettrici e saltavano qua e là in preda al gatto panico e qualcuno se la pigliava coi suoi simili mollando gatto festoni cinebrivido col vecchio zampotto e pac e uff e grrr. Mi alzai sulle patte e c'era questa bigia pulcella tutta vendicativa che scuoteva i bargigli e grugniva cercando di alzarsi anche lei. Così le mollai un bel calcetto sulla biffa, ma lei non gli piacque e fece «Uaaah!» e si locchiava che la biffa rugosa e venosa diventava tutta bella viola dove avevo piazzato la vecchia patta. Mentre rinculavo per il calcio, devo aver pestato la coda di uno di quei pussigatti scriccianti e squassanti, perché snicchiai un orribile «Iau!» altisuono e sentì qualcosa tipo peli e denti e artigli che mi si avvinghiava alla gamba, e allora bestemmiai cercando di scuoterlo via, sempre con quella statuina d'argento nella granfia, e cercando di scavalcare la vecchia babusca per raggiungere il bel Ludwig van tutto imbronciato nella sua pietra. Ma incocciai in un altro piattino strapieno di mommo e sdrucciolai un'altra volta e tutta la faccenda sarebbe stata una trucca molto ma molto comica se l'avessi immaginata stegolare a un altro Martino e non al vostro umile narratore. E poi la bigia babusca allungò le granfie di sopra tutto quel groviglio di pussigatti squassanti e macchiappò la patta senza smettere di fare e dato che non ero bene in equilibrio, questa volta feci un bel patapum sul latte sciaguattante e i rattoli scriccianti e la bigia pulcella, ora che s'era tutti e due per terra, si mise a darmi dei gran paffoni sulla biffa strillandolo «Massacratelo! Mordetelo! Tirategli via le unghie a questo scarafaggio velenoso!» rivolgendosi ai suoi pussi mao e poi, come se obbedissero alla bigia pulcella, un paio di rattoli mi zomparono addosso e si misero a graffiare da imburianati. Così mi imburianai anch'io, fratelli, e cominciai a menare, ma questa babusca disse «Mostro! Guai se tocchi i miei gattini!» e giù un graffio sulla biffa. Allora io scricciai «Lurida vecchia sportaccia!» e alzai la mia statuina tipo argento e le mollai un gran bel festone sul planetario e questo la zittì cinebrivido per benino. Ora, mentre mi rialzavo da terra tra tutti quei rattoli scriccianti, cosa snicchiai se non la vecchia sirena dell'autopolo in lontananza? E mi venne in mente guizzo che forse la vecchia pulcella stava telefonando ai Cerini quando credevo sprolasse coi suoi miagolatori e miagolatrici, essendole venuto il sospetto al lampo quando avevo suonato il vecchio chiamino per il finto aiuto. Così, ora, snicchiando questo orrendo sguerzo dell'autorozza, mi buttai a missile sulla porta d'entrata e dovetti sgroppare come pochi per togliere tutti quei chiavistelli e paletti e catene e altre trucche di protezione che c'erano. Alla fine aprii. E chi ti vedo sulla soglia se non il vecchio Bamba, mentre gli altri due miei cosiddetti soma sbignavano guizzi. «Via, via!» scricciai a Bamba. «Arrivano i rozzi!» Bamba disse «E tu resti qui a riceverli, ho ho ho!» E poi l'occhiai che aveva la cricchia nelle granfie e che l'alzava e poi fece «Vssss!» e mi mollò una scricchiata sparata e artistica sulle palpebre, dato che feci appena in tempo a chiudere i fari. Mi misi a ululare cercando di locchiare qualcosa attraverso quel grosso dolore ululante e Bamba disse «Non mi è piaciuto mica che mi hai fatto quello che hai fatto, vecchio Soma. Mica è stato tanto bello da parte tua, bambolotto!» E poi snicchiai i suoi tamagni stivaloni che sbignavano e lui che faceva ho ho ho nel buiame e fu solo pochi secondi dopo che snicchiai l'autopola arrivare con un gran porco ululato che diminuiva come una bestia scardinata sul punto di sbaraccare. Ululavo anch'io e caracollavo, tipo, e andai a sbattere sbam nel muro dell'ingresso, dato che avevo i fari appiccicati insieme con tutto il sugo che colava. Una vera agonia. Così ero là che andavo a branciconi nell'ingresso quando i cerini arrivarono. Non potevo locchiarli, naturalmente, ma potevo snicchiarli e sniffarli maledettamente vicini. E poi sentii che mi facevano il vecchio torcibraccio da carogne e mi portavano fuori. Snicchiai pure la ciangotta di un cerino che diceva come da dentro la stanza piena di rattoli e rattole dove ero stato «S'è presa un brutto colpo, ma è ancora viva!» E c'era dappertutto un gran miagolio. «Ma guarda che piacere!» sentii dire da un altro cerino mentre mi ficcavano guizzo nell'auto a forza di festoni. «Il piccolo Alex è tutto per noi!» Io scricciai «M'hanno accecato che zio vi fotta tutti quanti, sguanosi bastardi!» «Ma che linguaggio!» gufò una ciangotta. E poi mi beccai un paffone tipo man rovescio con una gran fianelluta o qualcosa, dritto sparato sul truglio. Dissi «Zio voglia che morite ammazzati, luridi lezzoni! Dove sono gli altri? Dove sono quei traditori fetenti? Uno di quei fottuti soma mi ha mollato la cricchia sui fari. Pigliateli prima che se la battano! È stata tutta un'idea loro, fratelli! Mi hanno forzato a farlo! Sono innocente! Che zio vi scanni!» Ma quelli si facevano delle gran gufate alle mie spalle da quelle carogne incallite che erano, e io per un po' continuai a sprolare di questi cosiddetti soma miei, ma poi locchiai che era tutto inutile, perché ormai dovevano essere tornati al calduccio del Duke of New York a rovesciar giù saponate scozzesi nel gargame di quelle bice babusche fetenti, e quelle lì a dire «Grazie ragazzi, Dio vi benedica ragazzi, siete sempre stati qui ragazzi, non vi abbiamo mai persi di vista, non vi abbiamo». E io intanto me ne andavo sirenando verso la rozzeria centrale, pigiato tra due cerini e beccandomi paffe e festoni da quei bulli gufanti. Poi mi accorsi che potevo aprire un piccolo poco i fari e attraverso un velo tipo lacrime l'occhiai passare una specie di città striscia per via che tutte le luci si fondevano le une con le altre. Coi fari doloranti potevo l'occhiare anche questi due rozzi che stavano con me, l'autista con un collo magro e un bastardone con un collo grasso che gli stava accanto. E questo qui mi sprolò tipo sardo ironico dicendo «Beh, caro Alex, finalmente passeremo una bella seratina insieme. Sei contento? Come fai a sapere il mio nome, sguanosa carogna? Che zio ti spedisca all'inferno, lurido lezzone d'un busaiolo!» Al che si fecero tutti una gran gufata e uno di quei fetenti che stava con me mi tirò lo snicchio. Quello dal collo grosso disse «Tutti conoscono il piccolo Alex e i suoi soma. Il nostro piccolo Alex è diventato una celebrità ormai». «Sono stati quegli altri!» scricciai. «George, Pete e Bamba! Non sono più miei soma, quei bastardi!» «Beh», disse il collo grasso, «hai tutta una serata davanti per raccontarci le audaci imprese di quei signorini e come hanno traviato il povero piccolo innocente Alex». Poi ci fu lo sguerzo d'un'altra sirena che passò davanti alla nostra auto e andò nella direzione opposta. «Quella è per i bastardi?» dissi. «Sono i vostri colleghi bastardi che li vanno a pizzicare?» «Quella?» disse il collo grasso. «È un'ambulanza. Sarà certo per quella povera vecchia signora, pezzo di delinquente». «È stata tutta colpa loro!» scricciai sbattendo i fari doloranti. «Quei bastardi saranno certo al Duke of New York che glutano. Arrestateli, accidenti a voi, maledetti bugaroni!» E ci furono altre gufate e altre paffe, fratelli, sul mio povero truglio indolenzito. E poi arrivammo alla porca rozzeria centrale e mi aiutarono a scendere dall'auto e poi a salire le scale a forza di calci e festoni. E io sapevo che non avrei avuto nessuna comprensione da quegli sguanosi busaioli. Che zio li maledica. Mi trascinarono dentro questa illuminatissima cantona imbiancata a calce e aveva una sniffa fortissima che era come un misto di vomito e gabinetti e birra e disinfettanti, tutte sniffe che venivano dalle sbarrate vicine. Si sentivano dei remigi che bestemmiavano e cantavano e mi parve di snicchiare uno che berciava «E tornerò all'amor mio, quando tu, amor mio, te ne andrai». Ma c'erano le ciangote dei cerini che dicevano a tutti di chiudere il becco e si poteva perfino snicchiare lo spatac di qualcuno che veniva festato cinebrivido e faceva «Oh!» ed era come una ciangotta di bigia babusca sbronza, non di uomo. In questa cantona con me c'erano quattro rozzi che si facevano una bella glutata sonora di cià, dato che ce n'era un pentolone sul tavolo, e quelli lì succhiavano e ruttavano sulle loro sporche tazzacce. Non me ne offrirono neanche un po'. Tutto ciò che mi offrirono, fratelli, fu un bigio specchio stronzo perché mi ci guardassi, e a dir la verità non ero più il vostro bel giovane narratore, ma ero una vera frana, con il truglio tutto gonfio e i fari rossi e il naso ammaccato. Si fecero tutti una gufata cinebrivido quando mi nocchiarono sgomento, e uno disse «Tipo notte d'amore e di passione!» E poi un cerino capo con un mucchio di stelle sulle mestole, per dimostrare quanto era in alto, entrò e mi locchiò e disse Così quelli cominciarono. Io dissi «Non dirò una sola unica mottata se non c'è il mio avvocato. La legge la conosco, bastardi!» Naturalmente loro si fecero una buona gufata al tisuono e il cerino stellato disse «Ben, ben, ragazzi, cominciamo a fargli vedere che anche noi conosciamo la legge, ma che conoscere la legge non è tutto». Aveva una ciangotta tipo signore e sprolava in modo stanco. Poi fece un cenno con un sorriso somesco a un bastardone grosso e grasso. Questo bastardone grosso e grasso si tolse la giacca, mettendo in mostra un gran buzzo bigio. Poi venne verso di me per nulla guizzo, e io sentii la sniffa del cià al latte che aveva glutato quando aprì il truglio per farmi un ghigno bieco, ma come stanco. Per essere un cerino non era affatto ben sbarbato, e si locchiavano delle chiazze di sudore secco sotto le braccia, e mentre veniva vicino mi arrivava questa sniffa tipo cerume di orecchi. Poi strinse a pugno la sua fetente granfia rossa e me ne lasciò andare uno proprio sullo stomaco, il che era sleale. E tutti gli altri rozzi si sganasciarono di gufate, tranne il capo rozzo che aveva sempre quel suo ghigno stanco tipo annoiato. Dovetti appoggiarmi al muro intonacato perché il vecchio fiato mi mancò, e così mi sporcai le palandre di bianco. E mi venne anche voglia di vomitare la torta appiccicaticcia che avevo mangiato prima di cominciare la serata. Ma non potevo soffrire quel genere di trucche come rigettare sul pavimento, così mi trattenni. Quando vidi che il grassone si voltava verso i suoi soma cerini con una gufata cinebrivido per la sua bella prodezza, io alzai la patta destra e prima che gli altri potessero scricciargli di stare attento, gli mollai un magnifico, splendido calcione sullo stinco. E lui scricciò come un assassinato, saltellando su una gamba sola. Ma dopo questo me le dettero a turno, facendomi rimbalzare dall'uno all'altro come una lurida schifosa palla, fratelli miei, dandomi gran festoni sulle berte, sul truglio e sullo stomaco e menando calci. E così alla fine dovetti rigettare sul pavimento e come un vero scardinato dissi perfino «Scusate, fratelli, mi dispiace, scusate, scusate». Ma loro mi porsero dei bigi pezzi di gazzetta e me lo fecero pulire. Poi mi fecero dare sopra la segatura. E poi dissero, quasi come dei cari vecchi soma, che dovevo mettermi a sedere per fare una sprolatina tranquilla tutti insieme. E poi P.R. Deltoid venne dentro a dare una locchiata, dato che il suo ufficio era nello stesso caseggiato e aveva l'aria molto stanca e sgarrettata quando disse «Così è successo, piccolo Alex. Già, proprio come mi aspettavo. Peccato. Peccato, già». Poi si voltò ai cerini per dire «Sera, ispettore. Sera, sergente. Sera a tutti. Beh, questa è la fine della mia carriera. Già». «Oddio, oddio, questo ragazzo mi sembra un po' malmesso, no? Guardate in che stato!» «La violenza genera violenza», disse il cerino capo con una ciangotta tipo chiesa. «Ha fatto resistenza a un arresto legale». Fine della mia carriera. Già, ripeté P.R. Deltoid. Mi guardò con fari freddissimi come se fossi diventato una cosa e non fossi più un Martino pesto e sanguinante e molto stanco. Immagino che dovrò trovarmi in tribunale domani. Non sono stato io, fratello, signore, dissi un piccolo poco lacrimoso. Parli per me, signore, perché io non sono poi così cattivo. Sono stato trascinato dalla perfidia degli altri, signore. Canta come un cardellino, disse il cerino capo, beffardone. Per cantare, canta. Ti fa venire scemo. Parlerò, parlerò, disse freddo Pierre Deltoid. Ci sarò anch'io domani, non aver paura. Se vuol dargli uno sganascione, faccia pure, disse il cerino capo. Glielo teniamo noi. Deve essere stata un'altra grande delusione per lei. Allora P.R. Deltoid fece qualcosa che uno come lui, che aveva il compito di trasformare noi cattivoni in bravi malcichici né brivido, non avrei mai creduto potesse fare, specialmente con tutti quei cerini in giro. Venne un po' più vicino e sputò. Sputò. Mi sputò dritto sulla biffa e poi s'asciugò il truglio salivoso col dorso della granfia. E io mi pulii e ripulii la biffa sputata col mio garzuolo insanguinato dicendo «Grazie, signore. Tante grazie, signore. È stato molto bello da parte sua, signore. Grazie, grazie». E poi P.R. Deltoid se ne andò, senza dire un'altra mottata. Dopo, i rozzi si misero a stendere questa lunga dichiarazione che avrei dovuto firmare. E io pensavo tra me che l'inferno vi inghiottisca tutti quanti. Se voi bastardi siete dalla parte del bene, allora sono contento d'essere dell'altra sponda. Benissimo, dissi a voce alta. Lezzosi saloppi che non siete altro, bugaroni sguanosi. Scrivete pure, scrivete tutto. Io non striscerò certo più sulle rotule, luridi friggibuchi. Da dove volete cominciare, castroni fetenti? Dall'ultima scuola correttiva? Benone, cinebrivido, ecco qua. E gli rovesciai tutto addosso. E c'era questo cerino stenografo, un tipo di Martino tranquillo e come spaventato che non pareva affatto un rozzo vero e che copriva pagina dopo pagina dopo pagina dopo. Io gli servii l'ultraviolenza, il festaggio, lo squassaggio, il vecchio va e vieni, tutto quanto fino alla trucca di quella sera con la vecchia semprocchia e i suoi rattoli e rattole. E fece attenzione che i miei cosiddetti soma ci fossero dentro fino alle tonsille. Quando ebbi finito, quel cerino stenografo sembrava un po' fanè, povero Martino. Il cerino capo gli disse con una ciangotta tipo gentile: «Bene, figliolo, ora vai a prenderti una bella tazza di cià e poi turati il naso e batti 3 copie di tutto questo marciume. Poi le portiamo qui al nostro bel giovanotto per la firma». «Quanto a te», mi disse, «ora ti accompagneranno al tuo appartamento nuziale con acqua corrente e tutti comfort». «Bene», disse con quella sua ciangotta stanca a un paio d'altri rozzi, ma di quelli veri. «Portatelo via». Così a calci e pugni e spintoni mi accompagnarono in cella, dove fui messo insieme a 10 o 12 altri remigi, molti dei quali ubriachi. Là dentro c'erano dei Martini che parevano bestie schifose. Uno col naso tutto mangiato e il truglio aperto come un grande buco nero. Uno stravaccato sul pavimento che russava forte e con roba tipo melma che gli colava fuori dal truglio e uno che s'era fatto la sguana nei calzoni. Poi ce n'erano 2, tipo pede, che si fecero subito delle idee e uno di loro mi saltò addosso di dietro e dovetti squassare con lui di brutto e la sniffa che aveva addosso, tra il metilico e il profumo da poco, mi fece venire voglia di vomitare un'altra volta, solo che ora avevo lo stomaco vuoto, fratelli. Allora l'altro pede cominciò a mettermi le granfie addosso e poi ci fu un po' di squassaggio ringhiante tra questi due, perché tutti e due volevano il mio tronfo per sé. Facevano un gran baccano, così arrivarono un paio di rozzi e li crocchiarono in testa con dei manganelli, così quelli si misero a sedere zitti zitti guardando tipo nel vuoto e c'era la vecchia salsa che plic, plic, plic gocciolava giù dalla biffa di uno di loro. C'erano delle cuccette in questa cella, ma erano tutte occupate. In ogni fila ce n'erano 4 e io mi arrampicai su una che stava in cima dove c'era un bigio Martino ubriaco che stava russando, molto probabilmente issato fin lassù dai cerini. Comunque Io lo ributtai di sotto, dato che non era così pesante, e lui piombò addosso a un poldo grasso e sbronzo che stava per terra, e tutti e due si svegliarono e si misero a scricciare e a mollarsi dei patetici pugni. Così mi sdraiai su questo letto lezzoso, oh fratelli, e caddi in un sonno esausto e dolorante. Ma non sembrava un vero sonno, era tipo passare a miglior vita. E in questa miglior vita, fratelli, io ero come in un grande prato, con tutti i fiori e gli alberi, e c'era una capra con la biffa da uomo che stava come suonando un flauto. E poi, come se fosse il sole, si levò Ludwig van in persona, con una biffa temporalesca e la cravatta e il selvaggio crinami al vento, e poi sentì la nona, ultimo movimento, con le mottate tutte un po' pasticciate come in fondo era giusto che fossero, essendo quello un sogno. Gioia vaga, eccelsa luce, malcico dell'Elisio, ebri il nostro ardor ne adduce, e ti festerem sul truglio, o sguanoso bugaron. Ma il motivo era giusto, come capii quando fui svegliato 2 o 10 minuti, o 20 ore, o giorni, o anni più tardi, dato che l'orologio me l'avevano levato. C'era un cerino di sotto, lontano 1000 miglia, e mi stava pungolando con un bastone che finiva con la punta e diceva: «Svegliati, figliolo! Svegliati, bellezza! Sveglia, che t'aspettano guai seri! Perché? Chi? Dove? Come?» E il motivo dell'ode alla gioia mi stava cantando dentro cinebrivido. Il cerino disse: «Scendi e lo saprai! Ci sono delle belle notizie per te, figliolo!» Così scesi a fatica, tutto rigido e indolenzito e insonnolito, e questo rozzo, che aveva addosso una forte sniffa di formaggio e cipolle, mi spinse fuori da quella lurida cella russante, e poi lungo corridoi, e per tutto il tempo il vecchio motivo «Gioia, tu gloriosa scintilla del cielo» mi scintillava dentro. Poi si arrivò in una cantona pulitissima, con macchine da scrivere e fiori sui tavoli, e al tavolo tipo principale c'era seduto il cerino capo, che con aria molto seria fissò i fari gelidi sulla mia biffa addormentata. Io dissi: «Bene, bene, quali nuove, bimbo? Cosa stegola nel bel mezzo di questa magnifica cupa? Ti do solo 2 secondi per levarti quello stupido ghigno dalla faccia. Poi voglio che tu mi stia a sentire». «Beh, che c'è?» dissi io gufando. «Non le basta che sono stato picchiato a morte e che m'hanno sputato addosso ed avermi fatto confessare un sacco di delitti per ore e ore e poi d'avermi sbattuto in mezzo agli scardinati e ai pervertiti in quella cella zozza? Ha inventato qualche nuova tortura, saloppone?» «Sarà una tortura privata», disse lui serio, «e Dio voglia che ti porti alla pazzia». E poi, prima che me lo dicesse, seppi cos'era. La vecchia quaglia che aveva tutti quei rattoli e rattole era passata a miglior vita in un ospedale della città. L'avevo crocchiata un po' troppo forte, si vede. «Ben, ben, eccoci qua». Pensai a tutti quei rattoli e rattole che avrebbero miagolato per chiedere il mommo e che non ne avrebbero avuto, o almeno non più da quella bigia pulcella che era la loro padrona. «Eccoci qua». Avevo fatto la mia, proprio, e avevo soltanto 15 anni. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.